America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The International Monetary Fund has today selected Christine Lagarde to serve as IMF Managing Director for a five-year term starting on July the 5th. 2011. La notizia l'abbiamo avuta ieri: il Fondo Monetario Internazionale, dopo lo scandalo Strauss-Kahn, ha un nuovo direttore, un nuovo managing director e una donna, Christine Lagarde, ex ministro dell'economia in Francia. La notizia l'avrete già sentita, ovviamente una notizia molto importante. Christine Lagarde diventa la prima donna alla guida di una delle grandi istituzioni multilaterali internazionali. Diciamo le grandi istituzioni nate dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Sono quattro poi queste istituzioni: il Fondo Monetario Internazionale, appunto, la Banca Mondiale, il WTO, il World Trade Organization, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale, e naturalmente la più importante, le Nazioni Unite. Sentiamola, Christine Lagarde. This is what is at stake, and what we want to encourage is behavior that is aligned with a reasonable risk policy. Avete sentito Christine Lagarde, un accento inglese impeccabile, e vi dico subito che secondo me la scelta non poteva essere migliore. Vi dirò perché, anche dal punto di vista politico. So che ci sono state un po' di polemiche, qualcuno diceva ma insomma questi europei vogliono sempre imporre il loro candidato. Ecco, ma al di là delle questioni politiche, vorrei ricondurre il personaggio Lagarde alla sua dimensione umana, alla sua dimensione di persona. Mi è capitato di incontrarla qua a New York in un'occasione che era poi il compleanno di un suo carissimo amico, e mi ha colpito molto la sua spontaneità, la sua naturalezza, la sua semplicità e, devo dire, la sua lealtà, perché a quell'epoca Christine Lagarde era ministro per il commercio in Francia, eppure era molto legata a questo suo amico, avevano lavorato insieme anni prima. Ebbene, è venuta per celebrare questo compleanno, ha preso un aereo, è venuta e tornata indietro. Non so quanti ministri di quanti governi possano essere pronti a prendere un aereo per un compleanno molto normale di un amico molto normale. Vi racconterò che, conoscendola, abbiamo parlato, mi raccontava dei suoi rapporti con l'Italia, abbiamo, confesso, anche ballato insieme. And the most important thing is that we keep at it, working with countries around the world, make sure that we're doing as much as necessary to make sure we bring recovery back in place as quickly as possible. Il segretario al Tesoro Tim Geithner, avete sentito la sua voce, è stato lui che ieri ha dato l'annuncio che gli Stati Uniti avrebbero votato a suo favore, e l'America ha dunque gettato il peso del suo voto in questa partita, che è stata una partita complessa per la successione al Fondo Monetario Internazionale. Ecco, per diradare i fumi di quella che secondo me è stata una polemica inutile in una parte della stampa europea internazionale, e cioè se l'Europa meritasse davvero questa poltrona. Ecco, per diradare, direi, questa polemica è intervenuta puntualmente la dichiarazione di voto cinese. Attenzione, è intervenuta questa dichiarazione di voto prima della dichiarazione di voto americana di ieri. I cinesi hanno detto sì alla Lagarde e dunque hanno detto sì all'Europa. Vi ho detto i suoi pregi. Beh, la Lagarde è una donna che si è fatta veramente da sola, e una donna, vi dicevo, straordinaria sotto molti punti di vista. È cresciuta in una famiglia molto normale, il padre era un professore di inglese, la madre un insegnante di scuola elementare. E quando era una teenager ce l'ha fatta entrare nella squadra nazionale del nuoto sincronizzato, dunque è anche una grande atleta. E poi così si è sempre fatta avanti, ha deciso di andare a studiare in America, ha vinto una borsa di studio, ha poi avuto un internship nel congresso americano con Bill Cohen, e poi è entrata in questo studio legale, uno dei più importanti americani, di Baker McKenzie all'inizio degli anni 80, e nel giro di una quindicina d'anni ha fatto carriera, addirittura diventando presidente, chairman di questo studio legale, che è uno dei più importanti del mondo, con centinaia di avvocati. La prima volta che questo studio ha avuto una donna come suo presidente. Dunque i numeri c'erano tutti, e da un punto di vista, di nuovo, della sua qualifica professionale rispetto agli altri candidati, beh, è l'unica rispetto ad altri, rispetto anche ad esempio a Stanley Fischer, che era un candidato molto forte, aveva lavorato al fondo, sicuramente un grande banchiere centrale, il banchiere centrale della banca israeliana. è l'unica che ha una preparazione commerciale, è stata ministro al commercio, giuridica per questo suo passato non soltanto in America ma anche in Europa, in studi legali importanti sul piano internazionale, infine ministro delle finanze, dunque una esperienza economica acquisita, lo sottolineo perché la sua laurea era stata in giurisprudenza e non economia. Dunque il campo è sgombro sotto molti punti di vista per i meriti di questa signora a guidare il Fondo Monetario Internazionale. Però ecco, restavano queste critiche all'Europa, all'arroganza francese, alla continuità di un accordo informale stipulato nel primo dopoguerra per garantire all'Europa, ma anche all'America, la guida di certe istituzioni economiche. Si dice che questo accordo ormai è non soltanto datato, ma è condito dalle palesi debolezze strutturali europee, dunque non dovrebbe più essere valido. Però ieri il messaggio di Geithner è stato anche chiaro su un altro punto di vista, perché Washington ama sottolineare che la struttura azionaria del Fondo Monetario Internazionale è trasparente e dunque conta questo schieramento azionario. Se vogliamo contarle queste azioni invece che pesarle, il 34,34% del capitale di questa istituzione fa capo a diversi paesi europei. Certo, questi paesi possono votare in modo separato, ma hanno trovato per una volta un fronte unito. Gli Stati Uniti hanno il 16,78 del voto, bastano queste due combinazioni di voto per avere il 51%. E dunque io mi domando, ma perché certe persone, come hanno scritto anche sul mio giornale, si sono scandalizzate per il fatto che l'Europa e non un paese emergente si affermasse su questo seggio? Io devo dire che da un punto di vista politico, al di là delle qualità della Lagarde, che vi ripeto sono ineccepibili, non ci vedo nessuna incongruenza di nessun genere. Le regole sono quelle, nel tempo cambieranno se alcuni degli altri paesi acquisiranno delle quote superiori e soprattutto se ci sarà un candidato altrettanto adeguato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il nuovo album della rock band di Chicago, Wilco, uscirà a settembre con il titolo The Whole Love. Da questo album vi faccio ascoltare dei Wilco, I Might. I'm right.